Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, guardi, sia cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, io chiedevo, siccome sono un tassista, chiedevo che nella sala lì al 91 di Monterosa, il Sole 24 Ore ci dia dei volantini o perlomeno delle vetrofanie che informi il cliente che quando viene su noi tassisti stiamo ascoltando la Zanzara. I broke a thousand hearts before I met you. Volete sapere qual è la parte migliore della Zanzara di ieri sera, caro Parenzo? Tu ti stupirai, o forse non ti stupisci per quello che sto per dire. Però è un epico scontro, quello tra una transessuale diventata poi nella vita, chissà perché, leghista, e un leghista di vecchia data che noi conosciamo bene, che magari non è noto al grandissimo pubblico. Lui si chiama Max Bastoni. E per spiegare agli ascoltatori chi è questo personaggio, è uno che da sempre si trova accanto a Mario Borghezio, cioè era sostanzialmente il segretario, il portaborse, l'uomo di Mario Borghezio al Parlamento Europeo, dappertutto eccetera. È diventato consigliere comunale a Milano e gli sta sulle palle il fatto che un transessuale metta al posto del reggiseno il sole delle Alpi, il simbolo storico della Lega, che dovrebbe essere peraltro cancellato perché insomma la Lega ormai è diventata un'altra cosa. E c'è stato uno scontro epico ieri sera alla Zanzara, in cui addirittura Efe Ball, ma lo possiamo dire anche se sono le 18:37, ha dato della testa di cazzo a Bastoni. Quelli veri che lo sono, sì, quelli veri che non si indignano, quando le Lega investiva in Tanzania, ma si indignano con le mie foto perché io sono una trans. Ma tu indignati di te stessa di dire questa cosa qua, testa di cazzo. Ma dai, ma tu figurati, ma vai a controllare Tanzania, il tuo conto corrente, invece di rompere coglioni a me. Devo dire che questa tensione, questo scontro pazzesco, io do ragione alla signora Efe Ball, non è che possono rompere le balle. Che signora proprio, eh? Perché signora? Perché? Che c'ha? Perché un transessuale che batte, che fa la prostituta, non può essere definito signora? No, certo, però... È un uomo che ha sempre col pisello di fuori, cioè col pisello che però è diventato quasi donna, un transessuale che fa la prostituta. Ma io non lo capisco, ma sei diventato razzista nei confronti dei transessuali? No, anzi, figuriamoci. E allora? Che non si può rinfacciare al signor Bastoni, che ha tutte le colpe del mondo, quella del conto in Tanzania, ho capito, ma perché si indignano? A parte che comanda il capo. Lui, se a me il sole delle Alpi, come sai, sì, l'uso che ne posso fare è molto, sì, diciamo, è plurimo l'uso, sì, l'uso che posso vedo fare che così. Sei piuttosto sveglio stasera, cioè sei sul pezzo stasera, sei veloce, rapido, eccetera. 18:39, sei sul pezzo. Che hai fatto oggi? Una giornata di sole? Che hai fatto? Hai dato la pappa al bambino? Cosa hai fatto oggi? Oggi ho fatto. Cosa hai fatto oggi? Hai preso il sole? Cosa hai fatto? No, stamattina alle 6:30 ho fatto l'abbraccio al sole. L'abbraccio al sole? Sì. Poi? L'abbraccio al sole con una specie di yoga, eccetera. Sì, yoga, Poi state ad ascoltare voi che siete in macchina, incazzati neri, avete lavorato, eccetera. Cioè, questo sta in spiaggia, il saluto al sole, i bambini, eccetera, eccetera. Poi comodamente alle 18:30 viene qui a romperci i coglioni, capito? Poi ho letto un po' di agenzie, sicuro. Un po' di cose, un po' di giornali, mi sono arrivati un po' di giornali. Mi raccomando, con calma, con grande calma. Piscina, poi ho fatto il jogging in piscina. Sì. Jogging in piscina e poi una doccia gelata freddissima perché c'era David? Troppo caldo. Sì. David? Sì. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì. Allora, quello che state per ascoltare si sente male, non si sente benissimo perché è un comizio di Salvini, in cui il leader della Lega dice che gli sta sulle palle il Papa con la falce e martello. Molti di voi forse hanno visto questa foto in cui il Papa, in alcune foto pubblicate il Papa è piuttosto perplesso, in altre foto è sorridente. Ovviamente alcuni giornali dicono: ecco il Papa che sorride di fronte a questo regalo del presidente Morales, il presidente boliviano, con il Cristo sormontato dalla falce e martello. Certo, è un po' strano che il Papa riceva questo regalo da un presidente sudamericano in cui c'è il Cristo praticamente inchiodato dalla falce e martello. Non è una cosa proprio, no? Ma è Bergoglio, ragazzi, è Bergoglio, è così, Salvini. Io non so che effetto ha fatto a voi, però vedere il mio Papa che va a ricevere un crocifisso scolpito nella falce e il martello, a me ha fatto girare le palle, non so a voi. Vabbè, non so che le foglie di coca, si vede. Il Papa con le foglie di coca e con una falce e il martello che inchioda il Cristo. Vabbè. Lo sai che più leggo sulla vicenda dei vitalizi più mi girano. Ma più che i vitalizi, scusa, tu che avrai letto come me tutti i giornali, a me ha colpito il titolo di Libero. I giornali sono morti, sono di stamattina, sono morti ma i giornali. Il titolo di Libero di oggi dedicato alla morte di quel povero bambino di sì, tre devo anni, dirti la verità, molti hanno polemizzato con questo titolo: la metro di Marino uccide un bimbo. Ecco, bravo, esatto. Sì, sì, l'ennesimo guasto agli ascensori. Alle 7:15. Sì, però io voglio salvare i signori di Libero per un motivo molto semplice. La metro di Marino è intesa come No, ma ragazzi, ci sono giornali che fanno titoli normali, ci sono giornali che fanno titoli aggressivi. Di che parliamo? Dai, su, parliamo dell'acqua calda. Cosa vuoi che titoli Libero, che ha chiaramente una posizione contro Marino sulla vicenda della metro? Ma scusami, ho capito, si può essere contro Marino. No, la metro di Marino uccide un bimbo, è chiaramente. Ma chiaramente mi pare offensivo anche rispetto alla famiglia di quel bambino, soprattutto. Vabbè, comunque, chi se ne frega del titolo di Libero? Chi se ne frega del titolo di Libero? La metro di Marino uccide un bimbo, nel senso che la gestione della metro di Roma è di Marino. La tesi della signora Taverna che dice, ma no, il nome. Ma dai, su. No, devo dirti, la storia dei vitalizi, più leggo e più mi sta sulle palle. Alla fine hanno tolto il vitalizio a quelli, ai più sfigati, quelli che non hanno un appoggio, quelli che non sono protetti da nessuno, magari quelli che proprio avevano bisogno, magari per una questione di carità. Io toglierei tutti i vitalizi, tutti, domani mattina, come vuole fare. Ho letto un esponente del Partito Democratico, no? Il signor Richetti, inascoltato sicuramente, perché li toglieranno mai, anche perché ci saranno i ricorsi, eccetera eccetera. Però toglierlo a, che ne so, Pietro Longo, dimenticato dalla storia, ex segretario del Partito Socialdemocratico, uno che ho letto che gli serve per pagare l'affitto della casa da qualche parte, no? Ma che senso ha? Cioè, ha senso toglierlo a tutti, ma solamente a un signore che sta lì, che prende sto vitalizio per pagarsi l'affitto. Lo capisco, tutti si devono pagare l'affitto, allora toglietelo a tutti, altrimenti sembra un atto di ingiustizia, uno specchietto per le allodole, per dire abbiamo tolto il vitalizio ai condannati. E non è vero, solo una parte dei condannati. Vittorio? Sì? Dove sei? Sono quasi. Quasi? A Bari. Quasi a Bari, ma tu sei sempre in giro per l'Italia. Dico, come cazzo fai a campare così? Devo dire. È vero. Come fai a campare come vuoi? Puoi sapere io mi muovo, io vedo tutto e gli altri non vedono quasi nulla. Tu sei continuamente in giro per l'Italia, continuamente. Ieri, devi sapere, voglio darti una notizia straordinaria. Ieri ho vinto il premio Roma. Era nella platea Letta, che è nato il 15 aprile del 35. Letta chi? Letta Gianni. Quello buono, Gianni. Cioè, non l'incapace. Non l'incapace di cui parla oggi. È nato il 15 aprile del 35 ad Avezzano. Sì. Poco lontano da Avezzano c'è Tagliacozzo. Sì. Io vado lì per fare un convegno sulla valorizzazione. Pure a Tagliacozzo. Sì. E mi portano a vedere un palazzo ducale, di fuori bellissimo, sì. dentro sì. Acqua, abbandono, stanze da restaurare, abbandonato, proprietà della regione che lo vuole vendere, gli portano la cappella, pavimenti sì. originali, soffitto rubato durante il restauro, sì. a cassettoni, affreschi più belli di Piero della Francesca, sublimi, conosciuti a tutti, e tu spendi quasi 1 miliardo di euro per fare il palazzo del Tribunale di Giustizia di Firenze, 100 milioni di euro sì. per fare il Palais Pau, e poi hai un capolavoro di bellezza travolgente del 1460-70 sì. sconosciuto in abbandono. Questo è il tema, a me non importa. Ma questo è un crimine, questo è un crimine, è ovvio che è un crimine. Io adesso chiamerò D'Alfonso, chiamerò, ma dico, ma questa gente che a mezz'ora da Roma, sono un sottosegretario potentissimo a mezz'ora da Tagliacozzo, un edificio straordinario, e io butto i danari nella merda immonda di paleoliche, di distruzione della bellezza. Ma so che il hanno speso 3 milioni e mezzo presentato ieri per fare il nuovo allestimento, che è un crimine, l'ho denunciato a Cantone, facciamolo insieme. Quale? Che è lo spostamento della Pietà Rondanini, da dove stava in un bellissimo allestimento, 3 milioni e mezzo per metterla in un cesso in cui si vede di culo il povero Cristo, inaudito. 3 milioni e mezzo buttati. Ma non ho capito che cosa ho letto, che vuoi che l'ISIS distrugga il padiglione dell'Expo, il padiglione Italia dell'Expo. Vabbè, quella è una battuta. Potrebbe però utilmente distruggere il Palazzo di Giustizia di Firenze, che è la più brutta architettura degli ultimi 30 anni. L'ISIS, a proposito di Palazzi di Giustizia, hai letto l'ultima opera omnia del signor Woodcock, il quale ha intercettato Renzi in un'inchiesta che riguardava le cooperative, e è uscita fuori una conversazione di Renzi con un generale della Guardia di Finanza, in cui Renzi dice che sostanzialmente è un incapace Letta, insomma preparava il terreno per... Ma che ne pensi di Woodcock? Ma io penso che Woodcock non può stare nella magistratura. Pagare lo stipendio a Woodcock è peggio che dare la vitalizia parlamentare a Longo. Se tu paghi uno che ha fatto solo errori, che ha speso non so quanti ha speso 20.000-30.000 euro per portare il falso re Vittorio Emanuele da Lecco a Potenza, tenerlo in galera perché era capo di non so nulla, e poi assolto. Interrogare Totti, la Flavia Vento, inchieste senza senso. Ha indagato il presidente Marini quando era ma com'è possibile? Non ha fatto una sola inchiesta civile. L'unica che ha ottenuto oggi un risultato è la più schifosa, quella che riguarda quella immonda figura di De Gregorio, il quale come tu sai bene era già passato con la destra nel 2006. Insomma, che bisogna fare con Woodcock? Per cacciarlo a pedate ci vuole il presidente Cossiga, che non c'è più, che riunisce il CSM, prende Woodcock e lo sbatte fuori dalla magistratura per incapacità strutturale. Fermo lì un attimo che c'è il traffico, abbiamo il traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Ha detto che il casseggio non è serietà. E Pulcinella, te lo ricordi, dice casseggiando. Allora, Renzi, intercettato con il generale Adinolfi, dice di Letta cose peraltro non particolarmente nuove per Renzo, lui non è capace, non è cattivo, l'alternativa è governarlo da fuori, Berlusconi sarebbe sensibile a fare un ragionamento diverso, poi parlano di Napolitano, di Letta possibile al Quirinale, però non ha l'età, eccetera eccetera. Sono intercettazioni opera del signor Woodcock su un'inchiesta peraltro archiviata nei confronti del generale Adinolfi. Allora, c'è sempre in mezzo Woodcock, che è tra l'altro quello che il PM dell'inchiesta su De Gregorio. Su Woodcock Sgarbi ha un'idea ben precisa, cioè cacciarlo dalla magistratura. Uno potrebbe dire, vabbè, uno fa un'inchiesta, questa inchiesta può andare bene, può andare male. No, però su questo ha ragione Sgarbi, cioè per i magistrati andrebbe fatta come la patente a punti, no? C'è la patente a punti, che è una cosa straordinaria che hanno inventato, una delle poche, per cui tu fai 1.000, fai 10 incidenti, vabbè, e la tua assicurazione sale. Ma no, e a un certo punto ti tolga la patente, però. Cioè, che Italia è con Woodcock, Vittorio? No, vabbè, Woodcock è un epifenomeno, come la Boccassini, cioè sono fenomeni, cioè uno, io penso quelli che ho conosciuto. Ma tu l'hai conosciuto, Woodcock, o no? Sì, l'ho conosciuto a casa di Cosimo Ferri, mentre faceva il ragazzo così, che si fa vedere per come è fascinoso, diceva che tra le sue passioni sarebbe stato, piuttosto che oltre a fare il magistrato, piuttosto di quello, fare il campione motociclistico. Cioè, così, sono persone che hanno questa concezione della vita, che è quella di fare i protagonisti, va benissimo. Ma è pericoloso, o no? È un uomo pericoloso? No, ma è una persona che è intelligente a parlargli, solo che ha una tale forma di, come te, come me, di protagonismo, che lo manifesta non con l'arte, la radio, ma lo manifesta con la magistratura. È la sua, il plasma se stesso facendo inchieste. Peccato che non ce n'è una che sia finita con una condanna reale, perché questa qui che gli è riuscita bene grazie a De Gregorio era più grottesca. Io ho scritto a Grasso per gli scusa, ma negli atti parlamentari c'è scritto che questo qua è entrato nel centro-destra, è nostro del gruppo misto nel 2006, cosa c'entra con la caduta del governo Prodi nel 2008? Perché lui dice, no, perché lui dice in sostanza, De Gregorio, che poi ha fatto la guerriglia a Berlusconi grazie a quei soldi, Berlusconi ha aiutato Berlusconi a fare la guerriglia al governo Prodi. Vabbè, ma comunque non ha significato, ma sappiamo poi che non è finita così, come ha detto Mastella, ma indipendentemente da come è finito, c'è Vutko che va preso a calci in culo, questo voglio sapere da te. Va io non posso prendere a calci in culo nessuno se non uno che mi sfida direttamente, però dico che come hanno cacciato dal Parlamento alcuni tipo Lusi e tipo quelli che nella magistratura portano danno all'erario spendendo soldi nostri, perché le intercettazioni di cui tu parli sono costate a me. Sono costate a me, le intercettazioni di Vittorio Emanuele sono costate a me. Io non pago le tasse perché uno usi le intercettazioni per sapere cosa dice Pippo Baudo a Ron. Hanno fatto anche questa. Non me la ricordo. Pippo Baudo a Ron. Allora, questa roba qua devono smetterla. E Renzi con Adinolfi? E Renzi con Adinolfi è importante o no? Sapere quello che dice Renzi? È inutile, ma poi non puoi intercettare il Presidente del Consiglio. Non lo era ancora, comunque. Sì, ma Adinolfi, spieghiamo che non è Adinolfi, Adinolfi. Ma no, è un generale della Guardia di Finanza. Ma se no la gente lì che conosce i nomi dei generali. No. No, volevo dirvi, siete avete il merito di trascurare, che quello che poi è sempre lì a rimestare queste cose è il solito Travaglio, che è uno furbissimo, ma che ha capito che questo è un fatto che porta dei valori commerciali. Cioè lui gode con queste... No, ma tu leggi la sua... Il suo editoriale di destra è venuto fuori che qualcuno finalmente gli ha detto che non si pubblica, glielo ho messo nel culo e lui mi ha detto fa piano, perché ormai questa cosa la possiamo dire. No, ma invece su quella ragione Travaglio, no. se quella roba lì è allegata ai fascicoli, non capisco perché il garante della privacy rompe i coglioni, cioè è allegata ai fascicoli, allora togliamolo dai fascicoli a disposizione delle parti. No, ma non lo dico perché io mi scandalizzo. Ma secondo te è credibile o no che Berlusconi si è fatto mettere in quel posto? Ma è assolutamente certo, ma non è un dato che qui si interessa, no? Quello l'hai fatto anche tu, l'ha fatto chiunque, cioè voglio dire il rapporto sessuale. No, Parenzo dice di no, Parenzo dice che non l'ha mai fatto. Ma questo riguarda, cioè, come dire, il tema sofisticato della sollecitazione anale lo conoscono anche i bambini, ma vale per le donne e per gli uomini. Ma non è una cosa che tu fai raccontare da una per prendere per il culo qualcuno che è stato con lei in maniera assolutamente, perché voi la generosità e la bontà di Berlusconi verso queste donne è un elemento che non è stato indagato, cioè uno così ricco ha dato soldi loro perché queste qui erano delle poverine. Che la poverina lo ripaga in questo modo, ragazzi, ma il problema è che non solo ha dato i soldi ma per questo. Ma su questo, scusami, su questo, anche su questo, ha ragione oggi Vittorio. Cioè, la generosità, ma che c'hai tu? Aspetta, perché la generosità di Berlusconi si vede anche dall'intercessore, come accetta di farsi fare quell'operazione lì, capito? Sì, anche perché io ho fatto un'operazione, ad esempio, del mio. Sì, è sgradevole leggerla, ma non c'è nulla di. Il fatto che non la usi per dimostrare quanto è generoso una anche una in quello. È generoso anche quello che dice sì, ti prego, fai piano, è giusto, ma che piano, giusto, ma che c'entra? Io avrei detto togli quell'affare dal culo, per dire, però insomma, ma perché materia... Scusa, non ho capito qual è il problema. Secondo me è la sublimazione dell'essere della perversione. Scusa, dell'essere uomo. La prima repubblica, immaginiamo il grande presidente del Consiglio Emilio Colombo, immaginiamo se dopo leggere la cosa di questo Emilio Colombo. Emilio Colombo che ha un ragazzino, ma non si dice, è una roba che leggi in un libro, che ma non è che un giornale, non è una notizia. Beh, è uno sputtanamento, ma è una cosa legata a un processo per capire. Io sono d'accordo con te, mi diverte moltissimo. È divertentissimo, dai, è divertentissimo. Sì, però... Poi chi se ne frega, non è che ti sputtana, perché se ti mettono dietro una cosa, ti sei sputtanato. Sono del perbenismo. Sto dicendo che appunto è una cosa che non è. Ma comunque, non è uno scandalo avere tolto il vitalizio a questi qua solamente. A te ti hanno salvato, vabbè, lasciamo perdere. Però. Non ho fatto nulla, quindi. No, ma ti hanno salvato nel senso che c'è una condanna che per te non è stata ritenuta valida per toglierti il vitalizio. Ma hanno tolto il vitalizio a 18 persone. A 18 persone, non so su quante condannate. Sì, ma poi glielo ridaranno, poi glielo ridaranno. Ma è una cosa di una demagogia spaventosa. Sì, spaventosa. Viviamo in... Ma Roberto, come si fa ad avere presidenti del Senato e della Camera Grasso e la Boldrini? Cioè, che da questo li fa capire. Cioè, che sono? Ma hai sentito? Hai sentito la Boldrini cosa dice? Come che visione del mondo ha? Sì, a me lo dici sulla Boldrini, sfondi una porta aperta, non c'è bisogno. Sono incapaci totalmente. No. Loro avranno la pensione, però purtroppo. Beh, non lo so. Grasso ce l'ha già perché c'è quella di magistrato. Sì. Va bene, ciao Vittorio, ciao. Hai capito? Tu in macchina non puoi fare il cazzo che ti pare come dici tu. E poi tu sei ignorante. Come cambia l'Italia vista dal tuo finestrino? Raccontaci il tuo viaggio on the road con una foto. Postala su Instagram o Facebook con l'hashtag TrackinReportage e inserisci nella descrizione Radio 24. I migliori scatti saranno in mostra al Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move. Tutte le info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Io ascolto la Zanzara tutte le sere e sono un masochista, però non si può sentire tutte le sere sentirsi un signore stipendiato dalla Confindustria che dice un sacco di bischierate. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Senti Parenzo, sai che c'è stato questo disastro in Riviera, no? Sulla Riviera Veneta. Come la Riviera del Brenta, sì, non un Veneta. Disastro pazzesco, abitazioni distrutte, danni, un però non so. Un uragano incredibile. Allora, certo. due signori residenti a Torino si sono precipitati sul luogo di questo disastro e si sono messi a fare gli sciacalli. Sono finiti in manette mentre stavano rubando delle grondaie in rame, altro materiale, eccetera eccetera. Indovina un po' di quale etnia erano questi signori. Io ho visto tutto. Di quale etnia erano? Etnia, insomma, di quale famiglia, di quale grande famiglia. Il fatto che tu dica appunto etnia, già anche qualora non avessi letto la notizia l'avrei dedotto, diciamo, ma invece l'ho letta. Che cos'erano questi due signori? Da dove venivano? Twittata da amici della rete. Da dove venivano questi signori? Erano dei Rom. Come mai erano dei Rom? E cosa devo dire? Come mai erano dei Rom? Questi come signori mai? Sciacalli che si sono precipitati nel Brenta a prendere della roba, a rubare del rame in mezzo a un disastro. Come mai, secondo te? Ma se lo dica l'avvocato che difenderà questi due criminali. No, perché potresti anche difenderli, magari, no? Ma che dice? Posso difendere dei criminali? Ho mai difeso dei criminali io. Ma che stiamo pensando? Magari pensi che possano rubare per sopravvivere, no? No, penso che siano degli sciacalli criminali. Il fatto che siano Rom e che questo crimine abbia questa etichetta. Sì. Cioè è sbagliato dire che sono Rom questi signori che facevano gli sciacalli sul Brenta. Sono dei criminali. Criminali e basta, e non è importante dire che sono anche Rom. Sì, diciamo anche che sono Rom, che sono degli sciacalli criminali Rom, va bene? Serve a ripagare il danno? No. Hanno tolto il vitalizio anche a Berlusconi e Sallusti dice che togliere i vitalizi in questo modo è solo per un'opinione pubblica e che Berlusconi lo dava in beneficenza. Sicuramente è un osso dato in pasto all'opinione pubblica, perché il problema dei vitalizi o della spesa, delle spese folli della politica non è certo togliere 2.000 euro al vecchio Longo o 2.500 euro al presidente Berlusconi, che peraltro non li aveva mai incassati, l'aveva sempre lasciato in beneficenza. Poi lo stesso Sallusti dice che Renzi è un dipendente di non so che cosa, della Spectr. Mi piace quando torna a combattere Sallusti, perché era tanto che non lo... Sì, perché adesso è diventato fortemente antirenziano, ovviamente. Sì, no, per un periodo era... Per un periodo... Perché ti assicuro che ne sentivo la mancanza, non è ironico. Cioè il Sallusti renziano non ti piaceva, cioè quello no, che... No, è innaturale, è totalmente innaturale, no? È contro natura il Sallusti renziano. Questo è il Sallusti che vogliamo. Del resto Renzi è un dipendente, perché non è mai stato eletto dal popolo, quindi è un dipendente di quella Spectre che ormai è quasi storia. Nel 2011 decise via Napolitano di far cadere prima Berlusconi, poi di insediare Monti. Ma dipendente della Spectre. No, bene, è tornato, perché meno male. È tornato. Stavo per chiamare la mia amica Sciarelli e chiedere di fare una parola di chi l'ha visto. È tornato a combattere, molto bene. Allora andiamo a Milano, Mario, vai, 800 24 00 24, Mario. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao. Senti, anzi, no, mi devo incazzare prima, mi devo incazzare ancora una volta. Poi uno dice che essere atei è una cosa straordinaria, essere atei, perché la religione porta anche a queste follie. Senti questo signore, questo cardinale Ennio Antonelli, signor Ennio Antonelli. Allora, sai che cosa ha detto il cardinale Ennio Antonelli? Sai che si parla, cose di cui non me ne fotte assolutamente nulla, dell'eucaristia ai divorziati, no? Cioè della comunione ai divorziati, un argomento vecchissimo di cui non frega niente a nessuno, solo alla gente, cioè alla gente di chiesa, no? No, a chi ci crede interessa. Ma sì, ma che gli frega la gente se uno dà l'eucaristia ai divorziati o no? Ma sono problemi che si pone solamente qualche cardinale o il papa, non ne frega niente a nessuno. Ma come fai a chiedere a qualcuno se è divorziato o no? Uno si mette in fila, fa la comunione e t'ha fregato, no? Ma che problema? Beh, ma è chiaro che, ma no, vedi come sei sciocco. Sì, però. Poi nella ma come... è chiaro che chi è religioso non lo farà mai, no? Ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Ma che, ma secondo te chi è religioso, perché fa la truffa mica a se stesso? Chi è religioso lo fa ogni giorno, lo fa, ma che dici, ogni giorno? Cioè, ma lo fa. Mica tutti vivono nel mondo di Crugiani, ma sai. Che dici, ma Berlusconi è andato a messa mille volte a fare la comunione quando si è divorziato, non dire no, stronzate, ma non dai. L'ha mai presa, poi. Ma come no, ma che dici, è pieno di divorziati che fanno la comunione senza che la chiesa gli dia il permesso di farlo, perché non è che uno può chiedere la carta di identità e lo statino matrimoniale alla gente quando si mette in fila. No, ma dovrebbe essere, come dire, dovrebbe, ma mica fai un torto alla chiesa, fai un torto a te stesso perché vai contro un sacramento. Ma che torto a te stesso, ma non è così rigida la cosa, dai. Ma no, dico per chi ci crede, io figurati. Allora, aspetta, fermo lì, allora, cosa ha detto questo signore Ennio Antonelli? Non capisce. Ma non capisci tu, cioè, non, lascia, il cardinale Ennio... è un religioso, che non è vabbè, che ma fa, tu, ma non è che sono tutti... per truffare se stesso, capito? Allora, comunque, il cardinale Antonelli ha detto che, attenzione, che la concessione dell'eucaristia ai divorziati e risposati si può anche prendere in considerazione, a una condizione specifica, la perfetta continenza sessuale, cioè con l'impegno di vivere come fratello e sorella. Cioè, se tu ti sei divorziato e ti risposi, se vivi come fratello e sorella puoi prendere la comunione, oppure se hai una continenza sessuale, cioè se non scopi. Ora, il cardinale Antonelli non vive nel mondo reale. Nel mondo reale, vorrei dire, vorrei affrontare in una discussione il cardinale Antonelli per dire, guarda che se uno si divorzia è perché molto probabilmente non scopa più con la moglie. Questo vorrei consegnare affrontare un dibattito. No, ma vorrei dirlo chiaramente al cardinale Antonelli. Cioè, caro cardinale Antonelli, scenda dal suo trono cardinalizio e si immerga nel mondo reale. Nel mondo reale le coppie che divorziano, questo lo dico a tutti i cattolici che sono in giro, è normale che sia così. Nel mondo reale tutte le persone che divorziano, la maggior parte delle volte, hanno problemi sessuali. Non trombano, cardinale Antonelli! Non trombano più! Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto. Sì, d'accordo. Dunque, se non trombano più, caro Amort, caro Antonelli, se non trombano più, una volta che si sono risposati, è perché hanno ripreso a trombare con questa nuova compagna, con questa nuova moglie, con questa nuova partner. Ora ti chiedo scusa. E dunque, caro cardinale Antonelli, entri nel mondo normale, ritorni nel mondo della normalità, nel mondo della realtà, della normalità, della vita normale. La Chiesa dovrebbe essere a contatto col mondo reale. Se uno si risposa e poi si presenta lì per fare la comunione, è normale che abbia ripreso a trombare! Ha ripreso a trombare alla grande! È per questo che ha trovato un'altra donna, un altro uomo! Lo vuole capire o no? Cardinale Antonelli! Mi fanno impazzire queste cose! Mi fanno, sì, sempre stiamo dando Gesù Cristo, per carità, mi fanno impazzire queste cose, perché è proprio. Che significa che i divorziati devono essere come fratello e sorella? Ma se sono divorziati e si sono risposati, è evidente che non sono fratello e sorella, no! Ma perché bisogna negare? Perché la Chiesa deve negare il sesso? Mi fa impazzire questa cosa a me. Parenzo, che cosa hai da dire su questo? Avanti. No, ma io non ho da dire che non posso difendere un'altra parrocchia. Se a uno gli vanno bene quelle regole lì, perché ci crede, ma per lui non sarà un problema, no? Cioè, a noi possono sembrare bizzarrie, a te in particolare. Ma no, ma non sono bizzarrie, ma sono cose ridicole. Ma anche per te sono... No? Dai, su. Al signor Antonelli, io conoscevo Laura Antonelli, ad esempio, e non conoscevo l'esistenza di questo Antonelli. Però questo nemmeno io, sì. Questo per problemi miei. Mi dice Antonelli, io dico subito Laura Antonelli. Comunione ai divorziati solo se non fanno sesso. Ma se sono divorziati è perché hanno ripreso a trombare se si sono risposati. Antonelli, mi fa impazzire questa cosa. Mi fa impazzire. Mario, Milano, dai. Sì, ciao, allora senti, volevo collegarmi un attimo con Filippotti, la sua proposta di legge sul fumo e tutto quanto. Volevo dire questo, io non sarei così severo con chi sta fumando una sigaretta o la pipa in macchina, ma metterei un'altra ipotesi. E se io la pipa anziché fumarla me la faccio una bella pipa, pipa mentre guido. Come la mettiamo? No, aspetta, cosa aspetta, aspetta, non ho capito, scusa Mario. Tu no, mi stai dicendo cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? Se ti fai una non fumo la pipa, ma mi faccio una pipa, hai capito? Io sto guidando e mi faccio una pipa. Allora tu dici dovremmo proibire. Hai capito? Esatto. In quel no, caso Parenzo, lì, Parenzo potrebbe anche proibire le pipe in macchina, giusto Parenzo? No, perché in quel caso lì almeno una mano non è sul volante, giusto? No, ma che. Era un ragionamento corretto quello che fa l'ascoltatore. A meno che, perché qua andiamo in un cavillo di legge, a meno che abbia il cambio robotizzato. Perché se ho il cambio robotizzato. Proibiamo qualsiasi qualsiasi cosa venga in tutto macchina. Tutto ciò che provoca distrazione al conducente può creare un danno. Ma questo altri è normale, questa è una banalità. Questa è una banalità. È il punto, ma è una banalità totale, te ne accorgi? È una banalità. Ma una banalità totale, è una banalità assoluta. La distrazione è già condannata, già esiste in partenza. Se è vero questo, io reputo civile l'Inghilterra che ad esempio vieta che tu possa fumare in macchina e anche la Francia, perché reputa quella una distrazione. Se poi questo simpatico ascoltatore si vuole far fare dei servizi, ma io figuriamo. No, li vuole fare da solo i servizi, no? Ma no, o se li vuole far fare da terzi o da solo. Da terzi è una distrazione lo stesso, però è meno grave perché puoi rimanere con le mani sul volante mentre ti fanno una sega, per esempio. E faccia quel che vuole, insomma, sostanzialmente. Però fermi un attimo, che abbiamo la pubblicità. Pippe, molte pippe. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Andiamo in provincia di Lucca, Gianluca, vai. Io ho ascoltato quello che dicevi prima e mi chiedevo come fa una persona ad essere atea. Sono cazzi miei. Sono cavoli tuoi, però sinceramente non hai chiesto, penso, di nascere. Ma io non dico mica che chi crede è un pazzo. Parenzo è ebreo, crede nella religione ebraica, mica ho detto che è un imbecille, ho detto semplicemente che io sono ateo, punto. Io e qualche volta sono anche contento di esserlo. Ma che significa come si fa a essere ateo? Perché dal nulla non viene fuori nulla, no? Vabbè, ma c'è che il mondo, l'universo, c'è il tutto e uno dice qualcuno scusa, che abbia tu credi, dato il via, tu, quello che vuoi, vabbè, d'accordo. Quello che come pensi meglio, però. Tu credi, io no. Che non ci sia nulla. E dunque, chi è ateo che cos'è? Chi è ateo che cos'è? No, secondo me è un. Cioè, non vede la realtà. Non vede la realtà. Cioè, non si può essere atei, secondo te? Secondo me c'è un qualcosa che ha creato. Che ha creato la Terra, l'universo. Ma va benissimo che tu creda. Io non sto dicendo che. Sto dicendo che io sono contento di essere ateo. E spesso quando ascolto esponenti religiosi sono ancora più contento. Questo dico. Sono ancora più contento. Dopodiché non è che mi dispiace, cioè nel senso perché tutto sommato penso che le religioni nel loro insieme intese certo in senso positivo dicano tutte la stessa cosa. Va bene, Paolo da Firenze, vai Paolo. Pronto? Dimmi. Beh, amici miei. Che è successo Paolo? Come ho sentito male il politico ieri, chi? Hanno tolto il vitalizio. Sì, e chi era? Squidieri, sì, ha avuto pure un timore, eri contento tu, eri contento? No, anzi, mi è dispiaciuto, proprio una brutta voce, auguri di pronta guarigione. Stavi godendo un po' o no? No, assolutamente, anzi, sono qui per una petizione, una raccolta di firme, un referendum, una raccolta di fondi per i poveri 12-17 sfigati che hanno tolto il vitalizio. Ma non c'è bisogno di fare una petizione, io li abolirei tutti i vitalizi, è diversa la cosa, io li abolirei tutti. Io li abolirei tutti i vitalizi. Su questo tutti. Siamo d'accordo, però per cui non è quella però il futuro, diciamo. Veramente non ha senso. Ma io non capisco se lo stai dicendo per ironicamente oppure. No, oppure ironicamente perché hanno fatto un provvedimento inutile, vuoto, pura demagogia. Ma quelle sono Boldrini e Grasso. Ma se abbiamo Boldrini e Grasso presidenti della Camera e del Senato. Ma sono un po'. Ci sarà una ragione, ridicoli. No? Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, ma che vuoi allora? Dopo questo, che vuoi? Solo questo? No, l'altra cosa è. Mughini. Mughini. Mughini mi che piace. Devi dire di Mughini? È una persona intelligentissima. ha una cultura mostruosa, è ironico, autoironico, un tifoso onesto, no? Cioè si dà merito alle squadre rivali indipendentemente dalla casacca, ok? Vabbè, abbiamo capito l'ironia, dai, abbiamo capito la presa per il culo, no, dai. No, assolutamente, vai avanti, ottimo, dai. Veramente, il problema, vabbè, è maestro, quando... non è che tu ci puoi chiamare per dire che stimi Bughini, perché noi del fatto che tu stimi Bughini semplicemente ce ne fottiamo, cioè cerca di capire, sono le 19:39, cerca di dare un significato a questo tuo intervento, altrimenti ti mando serenamente a fare in culo. Chiaramente, il problema è quando Bughini stacca il cervello e gli basta una semplice parola per staccare il cervello. Cioè quale? Indovina, qual è quella parola? Grillo. Bravo. Grillo. Sì, l'altro giorno ha detto pure che prende dei soldi in nero. Sì, vabbè, gli ha dato, l'ha accostato al nazismo, cioè francamente a me dà fastidio. Poi ognuno è libero di pensare come vuole, di avere antipatie anche forti, odio, però insomma, non me l'aspetto da una persona come lui e me l'aspetto di più da là, la scoreggina salentina. E chi sarebbe, scusa? Chi è la scoreggina salentina? No, dai, dov'è, su, là? Ma non fare la scoreggina salentina. Chi sarebbe la scoreggina salentina? 50 sfumature di Parenzo. Ma che c'entra? Ah, perché sta in Salento adesso. Vabbè, ciao Paolo, già mi rotti i coglioni. Ciao, ciao amici, ciao. Ciao caro. Tiro l'acqua. Ti voglio segnalare, Parenzo, che se non parli a voce alta non si sente la radio, non si sente, cioè se hai qualche cosa, se stai... Secondo me tu sei audioleso. No, ma davvero non si sente quando parli a voce bassa, è la radio. Secondo me sei audioleso, perché invece mi hanno segnalato che si sente perfettamente. Sì, i tuoi amici, ma se parli a voce bassa soprattutto ci sento benissimo, se tu parli, insomma, se tu bisbigli non si sente una mazza, perché no, la radio... No, bisbigliavo perché di fronte allo statista volevo proprio sentire la sua compiutezza di pensiero, diciamo, quello che ha parlato poco fa. Per te sono tutti stronzi, rincoglioniti. Il ciclope del pensiero, allora volevo sentire il suo ragionamento. Tommaso da Firenze, vai Tommaso, 800 24 00 24. Buonasera, senti, io chiamavo a proposito dell'intervento di Garbi di prima. Sì. Ora, a parte diciamo dare credibilità a uno che va in televisione a leticare, vabbè, questo ognuno giudica per conto suo. Ma a me, ma un po' stressato, per due questioni. Una, la questione dell'architettura a Firenze. Ora, è vero che siamo un po' immobili, però tutte le volte ce l'ha quel tribunale, prima ce l'aveva con l'uscita anale di Sozzati agli Uffizi. Se è tanto bravo, perché un progetto ha qualcosa lui? Se non mi pare che l'architettura ci capisca moltissimo. Beh, no, se c'è una cosa di cui capisce Sgarbi, sicuramente sono queste cose qui, no, arte, architettura. Arte, vabbè, ma insomma, lui vuole, non gli sta sul cazzo la nuova costruzione. Sgarbi era un architetto, Sgarbi è uno storico dell'arte, a quanto dice lui. Progettasse qualche cosa e la venisse a costruire, almeno si guarda se è più bravo. Comunque, a parte cioè, a lui non piace come è stato fatto, che era il nuovo tribunale di Firenze, lo vorrebbe abbattere. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ho capito, chi se ne frega? No, ma è che il parere di Sgarbi conta qualche cosa in materia di architettura. Vabbè, comunque, ognuno giudica. Vabbè, poi? Le pale eoliche. Ora, vabbè, basta, le pale eoliche, non ne posso più, un discorso vecchio, sappiamo che lui è contrario. Ho capito, ma mi dici voi... Aspetta un attimo, fermo. Vabbè, Tommaso, continua, dai. Ah, ma se in Europa stanno aumentando come numero, va bene... Mi dice perché noi bisogna continuare a produrre energia non rinnovabile? Cioè, non ho capito, perché a lui gli danno noia. Visivamente non bisogna costruire. Ma è una vecchia questione, è una vecchia questione, Tommaso. Cioè, Luca da Roma, dai, Luca. Luca? Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Vorrei solo portare una testimonianza, perché mi era interessato molto quell'intervento di prima sul cardinale che viene a pontificare sulla comunità di divorziati. Allora, io sono separato. Per motivi di lavoro, qui ci darei in maniera anonima, ho lavorato molto tempo con strutture collegate all'Opus Dei. Sì, allora? Va da sé che ho conosciuto, ho frequentato, parlato anche con preti, parroci che mi sono rimasti amici. Mi sono separato, sì. Mi sono... ho allontanato. Ma l'hai fatta adesso Luca, non ci riassumere tutta la storia, perché no, non è che possiamo stare qua a sentire tutta la... Per capire, perché purtroppo quando uno parla con la Chiesa, che è un sistema di controllo sociale, si parla sempre di sottigliezze. In realtà lì mi è stato detto, consigliato, rapportato esattamente quello che diceva il cardinale, cioè il fatto che quando hanno saputo che frequentavano la compagna, perché poi sono giri stretti, perché nella parrocchia non bisogna avere scandalo, in buona sostanza. Quando ti hanno detto che frequentavano la compagna, che è successo? Mi hanno fondamentalmente detto che era consigliabile una frequentazione nascosta, una frequentazione discosta. Vabbè, ma sono cose assurde di vita di parrocchia, non frega niente a nessuno. Cioè, non è vita di parrocchia, sono grosse strutture, perché la chiesa c'ha un costo per noi. Ho capito, tu ti sei risposato, giusto? Io adesso attualmente convivo. Vabbè, stavo d'accordo. Pensando lì, ovviamente civilmente. Ho capito, ma vai, prendila tranquillamente l'Eucaristia, fai la comunione o no? No, tranquillamente, ho fatto battesimi di nipotini, eccetera, non me ne è mai fregato niente. Ma certo, ma è normale che sia così. Ho dovuto fare gli battesimi sementi in un posto in cui non ero conosciuto alla comunità parrocchiale, perché il prete mi ha detto che non mi avrebbe data. No, ma io ho capito, ma se la norma, a me non interessa nulla, se la norma prevede questa cosa qui, non è che uno aggirandola fa un favore a Dio, cioè fa un favore a se stesso, però voglio dire, ognuno poi in religione fa quello che gli pare, Cioè sarebbe come se mi dicessero a un islamico, come si sa, non può mangiare il maiale, no? E allora sarebbe come se lui dicesse: ma guarda, tanto nessuno mi guarda, me lo mangio. Che è pieno di gente che fa così, anche Shetua. Allora non è una persona che anche Shetua, anche a casa tua, diciamo. Ma nella religione ebraica, però, non è che dici no, mi nascondo, perché lo fa per se stesso, mica perché fa un favore agli altri, Pierpaolo da Milano, dai, Pierpaolo. O uno ci crede o non ci crede. Sì, dimmi. Ciao, Cruciani. Ti volevo parlare di quei due rom che hanno fatto sciacallaggio. Sì, sì. Io quando facevo il carabiniere, lo sciacallaggio è punito in maniera molto pesante in Italia. Ma infatti li puniranno, spero, in maniera pesante, no, ma ovviamente anche quelli che non sono rom. Io mi ricordo si potesse anche sparare sui sciacalli. Ma adesso, tu avresti sparato sugli sciacalli? Sicuramente. Però, cioè tu questi rom li avresti sparato? È l'unica occasione in cui in Italia si può punire qualcuno che ruba, Cioè, però, tu da poliziotto, quando facevi il carabiniere, se avessi visto due rom. Se la legge lo permette, certo. No, ma ho capito, adesso non credo che la legge permetta di sparare sugli sciacalli. No. Non credo proprio, guarda, Pierpaolo. Lo sciacallaggio è punito molto più del furto. Forse in Italia, molto più. Se uno può sparare. D'accordo, ma tu mi stai dicendo che se fossi stato lì da carabiniere, se avessi visto due rom che fanno sciacallaggio nelle rovine della tragedia del Brenta, insomma, di quello che è successo nel Brenta, avresti sparato. Se la legge lo permette, sì. No, ma ho capito, la legge non lo permette, sia sereno, guardi. Non credo proprio che lo permetta, Cioè, Pierpaolo. Tu pensi di sì, invece, che si può sparare? Però voi vi rendete conto, vuol dire lo sciacallaggio ovviamente non è il brand. Beh, è il furto su una tragedia, il furto. No, ma la legge era stata fatta quando c'erano le bombe, tu andavi a rubare i morti. Vi rendete conto che persone sono queste? Ma io me ne rendo conto benissimo. Perché l'Italia è l'unica al mondo dove queste fanno questo? Perché poi alla fine questi qua lo fanno perché non subiscono nulla, perché non succede nulla a questa gente qua, in Italia soprattutto. Non è che gli sciacalli esistono solo in Italia, gli sciacalli esistono in altri paesi. Probabilmente queste cose qui in altri paesi sono punite molto più severamente. Cruciani, solo una cosa al volo. Dimmi. Provate ad andare in Romania. Ma in Romania li odiano i rom, non li sopportano, dai. Negli orfanotrofi della Romania i bambini sono trattati come gli animali nelle gabbie, gli bastonano sulle orecchie. E che vuol dire non questo? È bello, però queste persone che poi vengono trapiantate qui trovano un sistema giudiziario nostro che è plasmato sul paese dei sogni. Vabbè, Pierpaolo, ciao. Allora, oggi Patrizia Daddario, ve la ricordate, no? Patrizia Daddario, quella che è stata a casa di Berlusconi, che dice di essere stata a letto con Berlusconi, che dice di avere subito una tragedia dopo questo incontro con Berlusconi, non lavora più, eccetera, eccetera, e si è quasi incrociata col Berlusca, che è andato a testimoniare, anche se ha fatto scena muta, a Bari. Io proverei a chiamare la signora Daddario, un sacco di tempo che non la sentiamo. Ha detto addirittura che vuole fare un film sulla sua vita, ma è molto colpita e vuole scrivere una lettera a Berlusconi, e dice che tutte queste oggettine sono delle prostitute, lei è l'unica ad aver pagato, le altre hanno intascato un sacco di soldi. Proviamo a chiamarla, vai, in quel di Bari. Patrizia? Sì, con chi parlo? Ciao, sono Cruciani. Come stai? Insomma, oggi sono stata come al solito in tribunale. Ciao. Che è successo? Mi spieghi? Sì, è successo. È venuto lui, però io non ho voluto incontrarlo. E ho preferito scrivere una lettera lì davanti a tutti i giornalisti che erano lì e l'ho letta davanti a loro. E ho mandato un messaggio a lui attraverso questa lettera sulla dignità, sul fatto che le uniche vere prostitute di tutta questa storia sono loro. Tu dici le altre sono prostitute, io ho subito solo dei danni da questa vicenda, ma pure loro dicono di aver subito dei danni. E quali danni? Cioè, mi devi dire quali danni? Cioè si vede e si evince che queste signorine vanno a fare shopping, vanno a viaggi e si vanno a comprare appartamenti all'estero e appartamenti che gli regala lui hanno subito i danni. Io non ho avuto Ma adesso che cosa chiedi? Scusami, adesso Patrizia, adesso che cosa chiedi a Berlusconi? Io cosa chiedo? Sì. Al minimo dovrebbe farmi delle scuse, ma visto che se fino ad oggi lui non ha avuto un gesto nei miei riguardi, sì. Nulla, cioè poi vedo tutte queste intercettazioni che sono uscite di queste signorine, ma tu come le chiami? Brave ragazze? Le chiameresti tu le ragazze ancora oggi? Beh, persone, che hanno, persone che hanno cercato di sfruttare la situazione, diciamo, no? Hanno cercato, e perché io non l'ho sfruttata questa situazione? Io che sono stata chiamata escort, mi dici, allora io che scusa il termine, che escort? Sono io, cioè io non devo essere chiamata escort dal 2009. Queste signorine vengono chiamate le ragazze, ma le ragazze di che ragazze? Cioè sono tutte qua? prostitute. Ma tutte, ma scusami, queste persone che hanno fino ad oggi usato il presidente come bancomat, tu come le chiameresti? Sono uscite intercettazioni dicendo che se tu non fai quello che diciamo noi, cioè darci dei soldi, noi andiamo dai magistrati, sì. Capito? Io ho subito tutto quello che ho subito, ma almeno la dignità ce l'ho, non come queste ragazze. E oggi lo posso dire, sono loro le prostitute, sono sì. Loro le escort. I miei diritti umani, come sono, come essere umano, c'è una bambina, una ragazzina adesso, questa ragazzina sono da quando? Dal 2009. Sì. Come vive questa ragazzina senza avere più una mamma, da sola, allontando? Scusami Patrizia, perché... Queste signorine che vanno a... Che cosa hanno subito? Me lo devono dire loro cosa hanno subito. Beh, non lo so, hanno perso dei lavori, dicono, eccetera, eccetera, non le facevano sì, più... Ma quali lavori? Tanto lui le ha sempre fatte star bene, allora... In tutti questi anni loro hanno continuato a vivere facendo la bella vita e c'è una persona, cioè a me mi sono stati usciti un sacco di articoli dove mi definivano ricattatrice, ma di che cosa? Di che cosa? Ma adesso chiedi adesso chiedi, sono stata una persona vera. Scusami Patrizia, scusami, adesso chiedi dei soldi, allora oltre alle scuse, a una parola di affetto, hai detto una parola di conforto, cioè chiedi anche dei soldi per quello che hai passato o no a Berlusconi, concretamente? Ma secondo te, dopo tutto quello che io ho subito, io penso tutto, io appunto. Ma io l'unica cosa che mi rimane, sai che cos'è, te lo devo dire a tutta Italia, dimmi. Cosa mi hanno portato, cosa mi ha portato il presidente Berlusconi, cosa? È tutto quello, il suo entourage, tutto quello che c'era, al suicidio, perché una persona che si lascia rovinare così, come mi hanno rovinato a me, cosa potrebbe fare? Non lavoro più, mi hanno tolto la dignità come mamma, come persona. E non lo sono onesto, ma sentirmi dire tutti i giorni, perché io più dicevo la verità e più mi volevano rendere non credibile. Scusami, scusi signora mia, capisci? Hai pensato al suicidio? Patrizia? Patrizia? Patrizia? Scusa, non è possibile tutto quello che hai subito io. Cioè, una persona che gli togliete la possibilità di fare la mamma. Ma adesso come vivi? Come vivo? Come vivo? Io sopravvivo, come vivo? Con cioè, quali soldi? Con quali soldi? Io non ho soldi, io vivo con mia mamma, se non ci fosse stata mia mamma, io sarei finita in mezzo alla strada. Patrizia, scusami, ma tu poi sei andata a letto con Berlusconi però? Io ho detto tutto di quello che è successo. Io sono ritornata, perché c'era un inizio di storia tra me e lui. Cioè, provavi qualcosa? Allora, No, ma c'era un inizio di storia, sono ritornata, perché alla fine quando io sono ritornata lì, lui mi ha fatto ritornare per avere una storia con me. Una storia? Ma certo, c'è stato questo inizio di storia tra me e lui, dove non c'è stato uno scambio di soldi o di altro. Come la chiameresti tu? Io ero da sola con lui quando sono ritornata. Cioè sei stata da sola a letto con lui, non con tutte quelle ragazze? Quello era un inizio di storia. Non c'era altro. Scusa, perché sei andata via? Non c'era, io non mi sono venduta, capisci? D'accordo, perché sei andata via quella sera da quel letto? Perché? Ascolta, io penso che devo chiudere la telefonata qui, non ci so dire. Adesso basta, non ho altro da aggiungere. Va bene. Ciao Patrizia. Ciao, buona giornata. Ciao. Io non so, le persone che poi dicono di volersi suicidare, no? Mi rimane solo il suicidio. Ci credi tu o no? No, vabbè, adesso che sia un po' così, un po' tormentata, che l'ha detto più volte peraltro questa tormentata, cosa qui, piangeva. La definisci tormentata? Ma potevi trovare un termine diverso, tormentata. È una persona tormentata, è chiaro, ma si dice no, voce, no? Tormentata, che cosa originale, tormentata, fermi. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. La Zanzara. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? Neanche mia moglie è riuscita a farmi perdere le staffe come Cruciani. Siamo qui, 800 24 00 24. Francesco da Como, buonasera. Oh, buonasera signor Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Posso dire una cosa? Siamo qui a tutto orecchi. Perfetto, io volevo proprio mandarla a fanculo. Bene, ma ottimo. Proprio con tutto il cuore, quindi questa è la prima cosa che mi ma non mi faccio impressionare da queste stronzate. No, non so, ma lo so, ci mancherebbe, poi gli piace anche, quindi non particolarmente. No, vabbè, ma comunque ti ascolto Francesco. Niente, continua. Un'altra domanda. Un'altra domaggio che volevo fare, ma lei ma è non è reato? Che domanda, perché ha fatto una domanda prima? No, prima. Allora che così dici un'altra domanda? Non ha fatto manco una di domanda. Ha ragione. Già mi hai dato ragione una volta, forza. Ecco, infatti. Preparati. Ok, signor Cruciani, sì. Mi dicano, ma lei è laureato? Una domanda. Non così, ha importanza, comunque sì. Comunque sì, ecco, sì. Perché quando la sento parlare a volte, soprattutto adesso con quello che è l'argomento del cardinale lì, no? Mi sembra proprio che un laureato dovrebbe un attimino capire qualcosa di come funziona la filosofia, che ne so, la teologia, sì. Queste cose così, dovrebbe un minimo, io ho fatto la terza media, non mi metto sul suo stesso piano, per amor di Dio, però sentirla parlare così... Io ho semplicemente criticato il signor Antonelli, che è un cardinale, perché dovrebbe scendere più sulla terra, perché quando sostiene che si può dare l'eucaristia o l'ostia, chiamiamola così, a un risposato solamente se pratica l'astinenza sessuale e solamente se i due si comportano come fratello e sorella, dice una stronzata che non sta né in cielo né in terra, cioè non è nella realtà della vita. La vita è un'altra cosa. La chiesa è da una parte e la vita dall'altra. Purtroppo questa è la verità. Ok, questa è la realtà. Beh, allora, ma non ho capito base, che cosa, qual è il... ma di base, una domanda, cioè non le faccio una domanda, adesso faccio un'affermazione mia personalissima. Ma di ma perché? Base, di chi dovrebbe essere l'affermazione se parli tu, scusa? No, infatti, quindi non è una domanda, ma è un'affermazione, diciamo è una mia idea. Preparati okay. Però prima di intervenire. No, ma io ho meno tempo di prepararmi per... No, ma preparati lei. Anche psicologicamente, mentalmente, preparati quando interviene. No, io sono già pronto. Non mi pare, sei in difficoltà. È abbastanza, mi fa parlare. Vai. Ok, di base diciamo che il concetto, come dice lei, è sbagliato, la realtà è ben altra, no? Però di base, visto che siamo umani, non animali, dovremmo in teoria amare una persona, stare insieme a questa persona, fare sesso solo con questa persona. Questa è la normalità, ma chi ha detto questa... che questa è la normalità, scusa? Beh, allora cosa facciamo? Ci inculiamo tutti come dice lei? Ma chi ha detto? A parte io non ho mai detto questo. Allora, ma chi domani, ha... allora un domani. Vabbè, Francesco, già mi hai rotto le scatole. Dai, inculeremo i cani perché è tutto normale. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Mi perdoni, allora mi dica una cosa. Ma qual è la normalità? Non ho capito. Qual è la normalità? La normalità è l'amore. Se due persone si amano, stanno insieme. I sentimenti hanno un valore. Le parole hanno un valore. David, hanno un ma stiamo sentendo qualcosa di normale o stiamo sentendo un tizio che sta dicendo delle banalità colossali? Eh? Vabbè, non hai niente da dire, Francesco, dai. Cose, no, ma le cose ovvie, poverino, vai. Non c'è niente da dire, vabbè. Bisogna di succede. Ovvietà, le cose ovvie, ormai si sono perse, ormai bisogna trovare un pezzo di ferro, come dice lei, filarsi nel culo per godere. Questo è per lei giusto? Ma io non ho detto questo, si può fare. Un po' ruvido, diciamo, questo, però. Va bene, dai. 8 da Roma, dai, 8. Buonasera. Sì. Buonasera, io volevo semplicemente dire questo. Come utente della metropolitana, chiaramente c'è da dire che da anni le condizioni della metropolitana arancione. Credo, sì, ma questo non è una. Come non è l'istituto della metropolitana, allora, non è l'istituto Luce. Guasti, scusi, cioè, non è pronto. L'istituto Luce, questo qua, cioè non è il telegiornale degli anni 50. Lei, come utente della metropolitana di Roma, cosa ci vuole dire? Io chiedo semplicemente questo: chiedo che la Procura di Roma apra un fascicolo nei ma riguardi che non è che ce lo deve dire a noi. In galera, Veltroni, Rutelli, Animano e tutti i responsabili se hanno appunto delle responsabilità, perché credo che sia moralmente inaccettabile, civilmente inammissibile che in tanti anni non si siano fatte le dovute opere di messa in sicurezza della metropolitana. Mi sono spiegato, forse perché i signori non prendono la metropolitana. Io no, guardi che la informo che apriranno la procura aprirà un fascicolo indipendentemente dalla sua telefonata. Mi perdoni, con chi sto parlando? Non so se sono Parenzo, caro. La informo da utente della metropolitana di Roma anch'io che indipendentemente dalla sua telefonata la procura di Roma ha già aperto un fascicolo. Io le dico, egregio signore, io mi permetto, chiamato per questo, io mi permetto di suggerire praticamente al prefetto di Roma, presidente della Repubblica, Marino, se ha un minimo di dignità, aspetta, la morte di questo bambino, quindi vadano via, siano cacciati via. Ma lei in quale paese vive? Nel paese dei balocchi o nel paese della realtà? La devo salutare, buonasera. Ma che vuol dire la devo salutare? Che vuol dire la devo salutare? Otto, maestro, professore? Una roba incredibile, Luigi dalla provincia di Torino, dai. Giuseppe? Sì, dimmi Luigi. Aspetta che sto pagando il casello di cazzo. Finito. Dai, paga. Ci sono. Ma allora, no, volevo dire una cosa innanzitutto a Varin, no? Approfitto per le frequenze di 24. Ma non ho capito, vorresti dire qualcosa a chi? A Varin, direi. Ma che c'entra Varin? Ma non stiamo a fare i messaggi tra Varin. No, cosa vuoi dire? Solo dimmi. Solo una cosa brevissima, tanto per dire. Visto che dice sempre passera DJ, visto che tu parli tanto di omosessuali, probabilmente dovrebbe dire passera di gay, non la passera di DJ. Vabbè, battuta, dai. Poi? Battutona. Cosa? No, poi ho chiamato la cancelleria del Divino Telma. Sì. un'oretta fa. Sì. E niente, ho chiamato la cancelleria, gli ho detto semplicemente a questa cancelleria che voleva effettuare un'intervista al Divino Telma. Ma la cancelleria o la macelleria del Divino Telma? Ma la cancelleria, allora? Sì, la cancelleria del Divino Telma. Allora? Comunque c'è uno che risponde e mi ha detto, cioè, con la R moscia, a volte si confondeva anche, rispondeva un po' col plurale maestatis, quindi vabbè. Probabilmente mi ha detto di chiamarsi Eugenio Robotti. Vabbè, no, Luigi, andiamo al sodo. Hai chiamato e poi? Vabbè, ho chiamato dicendo che volevo fare un'intervista, una specie di intervista su un giornale, su un quotidiano di Padova. Sì. Intervista rissa quasi tra Parenzo e il Divino. Sì. Sì, comunque questo Eugenio Robotti. Allora? Presumo che sia. Luigi, non ce ne frega niente di chi è. Ma che cosa? Vabbè, e comunque mi ha detto che non avrò nessun problema a contattare Parenzo, tanta è la modestia del suo povero cervello. e quindi io volevo chiedere a Parenzo cosa ne penso di. Va bene. Giuseppe da Torino, grazie. Ciao Luigi. Giuseppe da Torino. Ciao Cruciani. Dimmi Giuseppe, dimmi. Niente, sei un simpaticone, tu e Parenzo, ho avuto la fortuna di vedervi entrambi durante una diretta mi pare che fosse a Milano. Allora, ascolta, io però volevo dirti molto chiaramente sì. che probabilmente lo fai, però fai il maleducato. Ma con chi, scusa? Ti sto facendo parlare tranquillamente senza problemi. Certo, certo, ma io difatti non mi sto arrabbiando. E lo sto dicendo perché mi sembra giusto esprimere quello che penso. Cioè, come ti dico, probabilmente non lo sei, sei una persona a modo e tutto, però in trasmissione ti comporti da maleducato. Perché se io che faccio il manager, il commerciante, l'agente di commercio, interloquissi con i miei clienti, i fornitori in quel modo, forse non me lo direbbero neppure sei un maleducato, ma lo penserebbero. Ora, sì, ma io faccio un mestiere diverso dal tuo, conduco un programma alla radio, posso fare quello che voglio e soprattutto reagisco come mi pare a seconda dei miei umori, a seconda del fatto che sono stanco, non sono stanco, ho sonno, sono incazzato, sono felice, sono contento, eccetera, eccetera, capito? C'è un trasferimento molto chiaro dalla realtà della vita a una trasmissione radiofonica, per cui è tutto vero. Cioè è tutto vero, le incazzature, le risate, è tutto vero, non c'è nessuna finzione. Mi meraviglia che nessuno cioè, te lo faccia notare, qualcuno te lo fa notare. È pieno di gente che me lo fa notare, ma non frega niente a nessuno. Fermi tutti perché torniamo tra un attimo. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. La Zanzara. Parenzo, ti presento un signore. Ti presento un signore che ha un accento maceratese, un accento marchigiano. Vabbè, quella non è una colpa. No, non è una colpa, però è negro. Si può dire negro, Parenzo, sì. Nero, sì. No, negro. Io direi nero, ma. No, è negro, perché è proprio negro, è senegalese. Ed è un salviniano di ferro. Salviniano di ferro. Sì. Addirittura militante di Sovranità, che è quella formazione politica vicina a Casa Pound. Sì. Capito? Quello mi conosco benissimo, quel simbolo con la spiga, cioè, il sì, con sì. La spiga. Ma secondo te è possibile essere negri e nello stesso tempo salviniani, cioè della Lega e poi anche ma forse... guarda, anche all'epoca dello sfruttamento in America c'erano alcuni neri che erano al servizio dei cattivi, quindi sì, certamente sì. No, ma sì, ma nel senso che secondo te che cos'è? Un traditore, che cos'è? Esistono dappertutto, certo. Cosa? Esistono i KA, esistono i venduti, ovunque. Ah, i venduti. No, mi stai chiedendo un parere, poi mi fai sentito della risposta. Ovunque, per me è contro natura. Cioè, fate contro natura che un signore negro, come lo definisco io, nero, scuro, molto scuro di colore, senegalese, sia salviniano, sia con Casa Pound. No, ecco, sì, tutte queste due cose insieme le trovo... Allora, notizia, appunto. Notizia perché è come che so io, l'uomo che morde il cane, no? Il signore si chiama Paolo Diop. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Hai sentito Parenzo? Sì. Ma io gli rispondo subito. Lui probabilmente si riferiva ai negri da cortile, visto che si è riferito alla storia americana. Come i negri da cortile? Eh sì, perché ai tempi c'erano i negri da cortile e i negri da campo. Erano quelli da campo che andavano a trascogliere il cotone. Allora io gli rispondo... E c'erano i neri al servizio dei padroni bianchi, certo, bravo, ovvio. Allora, ti ha definito come ti ha definito al servizio del padrone bianco Salvini o al servizio del padrone... Allora io gli dico... Gli rispondo subito, gli dico meglio in cortile che nei campi di cotone, almeno non mi si rovina la schiena. Però vedi, appunto, ha confermato questo dato storico che lui ricorda benissimo. Ma no. Tra l'altro Paolo Diop è stato praticamente picchiato, credo ieri. Perché non so che è successo in questo bar. Dov'è che vivi, scusa Paolo? Io vivo nelle Marche, a Macerata. A Macerata, questa è successa in un locale che si chiama Sciada Civitanova Marche. Vabbè, ma perché hai litigato? Perché t'hanno riconosciuto come sostenitore di Salvini, non ho capito. Beh, in molti ormai mi riconoscono in giro, perché comunque i giornali ne parlano molto e uno di questi mi ha riconosciuto. Beh, ovvio, fa notizia, dai. No, ma non ho capito, ma che cane è uguale. Le conseguenze di queste botte, quali sono state? Ma le conseguenze sono state soprattutto morali, perché comunque una cosa così fa male. Sì, io glielo dico, morali, perché io combatto anche per gli stessi africani. Adesso Parenzo sicuramente dirà che sono un traditore, ma si sbaglia. Ma che vuol dire combatto per gli africani? Che vuol dire combatto per gli africani? Ma combatto, tu li vorresti, loro, li vorresti comunque lasciare tutti là innanzitutto, no? No, assolutamente no. La mia politica è molto diversa, è quella di far sviluppare l'Africa. Appunto. Di mandare via tutte queste multinazionali che la sfruttano prendono tutto quello che abbiamo, perché l'Africa è un continente ricchissimo ma povero. Sì, ma rispetto ai tuoi fratelli che si imbarcano su una carretta del mare, sfidano la morte e arrivano qui alla ricerca ma questo di non le vuole, vorrebbe bombardare le carrette vuote, credo, no? Cioè assolutamente no, assolutamente no. Io invece voglio risolvere il problema alla radice e non far ripartire per niente. Quello che dico io. In attesa di che tu risolva, tu e i tuoi amici, amichetti, risolviate il problema dell'Africa, in attesa di questo ci sono dei disperati che alla ricerca della felicità. Ma questi qua che arrivano qui sono disperati o no? Oppure è tutto un trucco sta roba dei pro? Allora, sicuramente c'è una parte che sono dei rifugiati politici, ma non possiamo definire tutti rifugiati politici. E gli altri vanno, vanno mandati via? Da un paese, sì, io vengo da un paese come il Senegal dove non ci sono né guerre, non c'è una fame da cui scappare, c'è solo da investire in quel paese, da investire nelle scuole, da investire in governanti che siano capaci di governare quel paese. L'Africa, purtroppo, il problema dell'Africa è che ha dei governanti corrotti. Ma scusa un attimo, perché ti sei messo, con quelli di destra? Cioè, tu sei un po' fascistone o no? Assolutamente sì, ma non c'è nulla di male. Cioè sei un po' sei fascista? Assolutamente sì. È fascista. Beh, assolutamente sì, adesso ci mancava pure il di colore fascista. Il negro fascista. Non mi dica di colore, Parenzo. Va bene, se le fa piacere. Che di colore? Negro. Nero. Lei mi pare è il classico esempio della persona perfettamente integrata. Ma si può dire negro o no? Si può dire negro o no? Ma negro si può dire, nero anche è corretto. Io odio di colore, perché di colore al massimo è Parenzo, che quando si arrabbia diventa fucsia, o quando sta male cambia colore. No, che non eccetera, sopporti eccetera. Di colore, ma è io giusto. Ma nero. È nero, e io posso dire senza nero, non in modo dispregiativo, posso dire tranquillamente negro. Fermi tutti, fermi che torniamo. Fermi. Traffico, veo chi là, vero chi là. La Zanzara. I due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. L'ottima trasmissione è sempre la migliore. Allora ragazzi, siamo qui 20:20 800 24 0024 con un signore che è negro dico io, perché sono autorizzato a dirlo, perché non lo dico in senso dispregiativo, fascista, vicino a Salvini e vicino anche a Casa Pound. Cioè, ecco, ti posso dire questo, caro. Ce le ha tutte insieme, insieme. Posso dirti questo, caro. Ed Giuseppe. È stato pure picchiato, lui dice, perché lo hanno riconosciuto come salviniano. Voglio dirti questo, caro Giuseppe, from caro Macerata, amico, from Macerata. Caro amico negro di Macerata, fascista. Beh, nero in tutti i sensi, nero fascista e nero di colore. Posso dirti questo, caro Cruciani, caro Zanzara? Al mondo esistono tante cose, perché esiste la donna barbuta che fa notizia, esiste Bonanno che fa l'eurodeputato, esistono gli animali che hanno tre gobbe, no? Ma adesso lo stai definendo una specie di pagliaccio. Fammi finire. Lo stai definendo un pagliaccio, scusami, devi avere rispetto, devi avere rispetto. Oh, mamma mia, ti ho detto, al mondo esiste la donna barbuta, esiste Bonanno che fa pure l'eurodeputato con i soldi nostri. Esiste anche, tu l'hai trovato, il signore di colore fascista che vuole lasciare i migranti a casa loro. Quindi non è che uno c'è da stupirsi, capito? Vabbè, ma in Africa, per esempio, da dove vieni? Un po' lo rimpiangono il fascismo, Paolo? Assolutamente sì. Prima volevo fare una domanda a Parenzo. Cioè, non ho capito, spiegami sta cosa. In Africa rimpiangono il fascismo? Sì, assolutamente sì. Se vai in determinati luoghi, in Eritrea e in altri paesi dove il fascismo ha portato scuole, ha asfaltato strade, ha portato civiltà, ha portato persone, anche una cosa che si chiama Ziclon B. Vabbè, stai tranquillo. Ha portato cosa? No, i gas tossici. Si chiama Ziclon B. capito? Posso dire una cosa, in tempo di guerra io ammetto che tutti abbiano commesso dei crimini, però come vengono ammessi i crimini perpetrati dalle varie fazioni, perché anche il comunismo ne ha fatti tantissimi, ci sono anche delle cose positive e vanno dette. Il peso della storia sul fascismo, cioè, lui dice, è pesantissimo. Lui dice sostanzialmente una cosa, che in Africa si stava meglio quando c'era la colonizzazione, o sbaglio? Assolutamente sì, almeno a quei tempi c'era calma e tranquillità, invece ora i governanti diventano ricchi sulle spalle della povera gente africana, per cui che Mussolini poi è costretto a emigrare e a venire in Italia. Ma Mussolini è stato un grande statista secondo te, signor Mussolini? Assolutamente sì, ha fatto degli errori politici, sì, naturalmente, ma è stato un grandissimo personaggio. Cioè, bisogna rimpiangere un po' quei tempi, no? Si stava meglio. Assolutamente sì, ma io credo che tanti italiani lo stanno rimpiangendo in questo momento. Tanti italiani rimpiangono Mussolini. Non sarei certo, non però sarei così certo. Insomma, cosa ti affascina di Salvini, il signor Salvini? Assomiglia un po' a un duce, a un condottiero? Cosa ti affascina? Beh, a un duce no. Sicuramente è una persona che per questo periodo storico è una persona che serve all'Italia, è una persona che sa parlare con la gente, ha le idee molto chiare su quello che sono i problemi economici e sull'immigrazione della popolazione italiana. Per cui sei molto affascinato dal signor Salvini, lo vedi come un... Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. E che ne pensi invece della tua, come dire, del Congo? Tu sei la signora Kienge, per esempio. La Kienge credo che abbia grossi problemi. Di che tipo? No, mentali. Mentali? Ah no, mentali. Problemi. Assolutamente sì. Cioè, io credo, a me danno della vergogna, dicono che sono una persona che si deve vergognare, eccetera. Io invece, fossi un africano, mi vergognerei più della Kienge. Perché? Che veramente, ma ha messo in ridicolo tutti gli africani, assolutamente. Non è stata capace di svolgere il suo compito, infatti ha dimostrato ben poco, al di là del colore della pelle, che ormai in Italia non ci interessa più, ormai stiamo andando su altre discussioni, che su quello dell'integrazione, su quello del comportarsi bene nel paese. Lorenzo, ma ti sembra un saltimbanco questo signore? Non ho capito. No, ma ho capito. È chiaramente curioso, perché Nicola era come la donna barbuta, dai, uguale, lo stesso valore. Ma stai paragonando adesso un personaggio da circo. Ma ti dico che una donna barbuta poco tempo fa è diventata famosissima, ma non perché aveva la barba, ma perché aveva la testa e una gran voce. Quindi una può essere pure una donna barbuta, io posso essere pure un nero particolare, ma probabilmente ho più cervello degli altri. Ma che mestiere fai? Che mestiere fai? Spiegami. Questo che ti intervistano tutti. Diop, che mestiere fai? Spiegami. Che io faccio l'operaio, sono una persona normale che sta in mezzo alla gente. Lo sanno, quello che pensi, quello che è là. Sì, lo sanno, anzi mi appoggiano pure. T'appoggiano pure? Moltissimo. Ma chi t'appoggia? Mi fa piacere, perché l'integrazione che le dica Salvini è riuscita. Quindi è la dimostrazione esattamente che chi viene qui si integra molto bene, forse troppo bene, capito? Vabbè, ciao Paolo, a presto. Ciao, grazie mille a tutti. Ciao. Saluti, caro. Ciao. Allora, Riccardo Milano, vai Riccardo. Sì, pronto, ciao. Dimmi. Buonasera, ciao. Niente, io ce l'avevo con Parenzo. Di solito io sono molto d'accordo con quello che dice Parenzo, però? Tranne che sui Rom, perché cioè io vorrei che lui avesse sotto casa sua, come ce l'ho io. Mi è capitato quando stavo a Milano, guarda. Quanti anni fa? Ho vissuto a Milano 10 anni, in un posto ma non hai vissuto Monza, accanto ai campi Rom, non dire stupidaggini, non è niente, guarda, ma che c'entra Viale Monza con i campi Rom, dai, non dire stupidaggini, ma vai a via della Chiesa Rossa qua a Milano, posti qua, proprio io, accanto, guarda, vai, no, Viale Monza, che c'è, che Via Roma, Viale Monza che ci stanno i campi Rom, dai, su. Viale Monza c'è una quartiere a forte presenza di migranti, ma migranti che c'è, stiamo parlando di campi Rom, è un altro discorso, a distanza di poco, perché c'è di poco, sarà un chilometro. No, io sto dicendo a contatto proprio, a contatto con un campo Rom. Bravo. Ma ecco, io volevo dire questo. Se lui ne avesse sotto casa adesso, che ogni mattina guardano nella spazzatura, c'è roba. Sicuramente io non sarei felice. Fammi parlare, scusa. Io non sono razzista, perché ho girato mezzo mondo, ho amici di tutto il mondo, e non sono razzista. Però questa gente qui non è in grado di stare in mezzo a gente civile. Perché se tu vedessi il casino che c'è... Ma io me la prendo con quei politici che strumentalizzano i Rom e non risolvono nulla. fammi finire. Due, solo questo hanno rapinato mio figlio un po' di 3 o 4 anni fa e io sono fuori dalla galera per 10 minuti, perché io sono arrivato 10 minuti dopo, perché se avessi visto quella storia lì, io che faccio l'idraulico e ho la macchina piena di tubi e di mennere, non so se sai cosa sono le mennere, sono le chiavi grosse, io gli avrei spaccato la testa, hai capito? E sarei andato in galera. Quindi non difendiamoli, sti qui sono indifendibili. Poi marocchini, tunisini si possono integrare, ma questi qui sono delle bestie. Cioè i rom non si possono integrare, non si possono integrare. No, assolutamente. Ma io sono d'accordo con te, su questa cosa. Ma io perché è impossibile. Io ci vivo, prima potevo anch'io pensare che potessero stare insieme a noi. Però c'è un sacco di gente che non si vuole, cioè, anche i pancabestia non si vogliono integrare, per esempio. Cioè, ma guarda, vogliono... i pancabestia, quando ho finito di fare i pancabestia, vanno a casa. Quello e sono le case tutte belle. Hai capito? Io che sono operaio vado a casa e devo portare l'amichetta ogni giorno, anche se le amichette non le fanno più a Milano. Che non sono, no, le amichette, portare... ma le michette, che sarebbe il pane. Sarebbero le rosette. No, ma è per spiegare. No, ma cioè, ho capito benissimo, sono anche d'accordo con te. I pancabestia, però anche loro nel modo di vivere non si vogliono integrare. E che cosa fare con le persone che non si vogliono integrare? Adesso la metto seriamente. Beh, è complicato, A mio parere... Via, sui pullman e via in un'isola, non lo so, ma io no, guarda che io sono di sinistra, ma parlo così per esperienza, perché non è possibile che per un'ideologia di 50 anni fa adesso siamo tutti cittadini del mondo, sto generoso, vabbè, non no, è ma vero, hai ragione, sembra che uno non può, no? Sembra che uno non può, certo, non può dire una cosa perché è razzista, fascista, ma fascista di che? Mio padre era partigiano, io ho preso di quelle manganellate in manifestazioni quando era il mio tempo, ma proprio, cioè, è una cosa, sono invivibili. Questi qui che da Torino hanno preso e sono andati a portare via il rame, 10 anni di galera, ma no qui, al loro paese, lì dove vivono. Spesso sono italiani, mi dicono che Elfeball, noi stiamo seguendo questa epopea di Elfeball contro Lega, abbia stracciato la tessera, sembra, stracciato la tessera, gli ha dato una testa di sostenitore della Lega, cazzata come una bestia, fermi. Ma siete una bella coppia comica, La Zanzara. Scontri televisivi, Santanchè contro Mughini. No, anzi, chi è? Sì, Santanchè contro Mughini, sì. Dopo, dai. Alessandro dalla provincia di Milano. Pronto? Dai, dimmi. Ciao. Vai, dimmi. Buonasera, Cristiano. Ma senti un po', ho sentito dire che tu sei ateo. Sì, allora? E da quando? Ma da una vita, perché? Come da una vita? No, Alessandro, perché non si può essere ateo, non ho capito. Sì, ma uno che è ateo non si deve sposare. Ma che c'entra non questo? Non deve portare la figlia a fare... il battesimo, ma non c'entra niente. Queste io sono contrario, ma sono cerimonie, a parte che non decido solo io, ma sono cerimonie che per me rappresentano, allora sei ateo, credi a qualcosa? No, assolutamente no, per me è come, potevo sposarmi anche dentro una grotta, per me sarebbe stata la stessa cosa, cioè, ma potevo sposarmi anche sul mare, per cui ha lo stesso valore. No, ma capisco, ma che è una capisco che è una contraddizione, e giustamente tu me lo fai rilevare, potrebbe essere una contraddizione, anzi sicuramente è una contraddizione. Però il modo in cui lo vivo io, il modo in cui l'ho vissuto io, era come, esattamente come sposarsi sulla riva del mare o come sposarsi dentro una grotta. Per me ha lo stesso valore. Era una forma, come dire, ornamentale, come dire, se vuoi, di allora, spettacolare. Un contorno, però sei ateo. Però tu sei sono al battesimo, ateo. Alla prima comunione. No, il battesimo, la prima comunione, sì, ma io non ho problemi a dirlo. Sono forme, come dire, sono cose formali che fanno parte di un certo tipo di tradizione, che siccome non sono solo io a decidere, ma io se ne può fare anche a meno, tranquillamente. Perché non l'hai fatto allora? Scusa. Ma non decido solo io, ti ripeto. Ma tu ti sei sposato. Sì, questo allora, sulla seconda parte non decido solo io, sulla prima parte ti ho detto il valore che do a questa cosa qua. Ah, allora tu dici che per te va bene così, per il resto ognuno decide. No, ma io non sto dicendo, ma non hai capito ancora. Do un valore ornamentale. Non deve credere a nessuna cosa. No, ma Alessandro, sono d'accordo con te. Se uno è ateo, non deve sposarsi in chiesa, fare battezzare. Esatto, cioè, sulla seconda parte non decido solo io. Sulla prima parte ti dico che sposarsi in chiesa per me ha lo stesso valore di sposarsi sulla riva del mare. D'accordo, come te, basta, punto. Per i fatti miei. Vabbè, Alessandro, qual è il punto? Al di là delle cose che mi riguardano, che giustamente tu mi fai notare, io ti rispondo tranquillamente. E no, siccome sentito che tu sei ateo, sai, vabbè, Alessandro, ho capito, grazie. Bruno da Como, dai, Bruno. Vai, Bruno, dimmi. Sei pronto? Dimmi, buonasera, dimmi. Frustani. Senti, io volevo controbattere Sgarbi, ma è possibile richiamarlo o no? No, non è possibile. Perché? Su che cosa? No, perché dice che Berlusconi pagava lui le oggettine. E della Nicole Minetti cosa mi dice? Anche voi non dite niente. Nicole Minetti chi la paga? Non ho capito, scusa. La Minetti l'abbiamo pagata noi perché Berlusconi gli ha dato non lo stipendio lui, ma gli ha dato lo stipendio il Consiglio regionale. Appunto, la paghiamo noi. Lui se la scoppa e noi la paghiamo. Sì, ma, infatti, ma guarda che Sgarbi ti direbbe sì, hai ragione tu, eh? E beh, allora perché dice che le altre le paga lui? Come ma no, ma le pagava, parlava di altre cose, le pagava come oggettine, eccetera, cioè le pagava... Sì, ma come fa a dire che sono i soldi di Berlusconi e non sono i nostri? Sì, ma ho capito, ma in quel caso no, sono i soldi suoi. Beh, come la Nicole Minetti la pagavamo noi. Vabbè, Bruno, aspetta, fermi tutti. Breaking news. Bella breaking news, Parenzo, questa volta la do io ed è Efe Ball straccia la tessera della Lega. Sì, l'ho visto, gira in rete questo filmato girato della sua camera da letto, credo. No, straccia la tessera della Lega e fa il dito medio ai leghisti. No, ma ho visto il filmato. Grande notizia, breaking news pazzesco. Documento storico. Cioè, Efe Ball straccia la tessera della Lega. Prenda atto che ormai è tutto finito. Va bene, Elena da Trieste, dai. Sì, pronto? Dimmi. Io volevo dire per la trasmissione di ieri, sì? Che io sono favorevole per la raccolta firme con la polizia per togliere la targa. Vabbè, sei d'accordo per togliere la targa Giuliani? Sì, perché è stata una cosa veramente... Poi? E poi che delle oggettine, delle lacrime della D'Addario e di tutta la messa in scena non ce ne può fregar di meno. Vabbè, ciao, perché... secondo da Biella, dai, ciao. Ah, sono io. Sì, sì, fino a prova dottore. Contraria sei tu, sì, dimmi. Sì, per adesso sì. Sì, per adesso sì. Ma ancora per qualche minuto. Senta, sono felice che lei abbia dichiarato di essere ateo, ma è felicissimo. Perché? Perché così non potrà mai, le dico mai, entrare in nessuna obbedienza massonica mondiale. Ma questo sono basate sulla libertà, l'uguaglianza e la fratellanza. Lei che si professa discepolo di un certo signor Francesco Maria Rueri, immagino. Ma di chi sta parlando? Io non conosco chi è questo qua. Voltaire, è il nome reale. Ma Voltaire. Ecco, sì, forse cioè. Lei non ha mai letto Candide. No, e le ho letto, ma non mi ricordavo allora, il vero nome di Voltaire. Bene. Comunque la mia felicità è espressa da questo. Da che cosa? Scusa. Molti auguri e di restare nel suo brodo. Ma qual è la sua felicità? Non ho capito qual è la sua felicità. Non ho capito perché bene. Lei rinuncia automaticamente ad una possibilità di conoscenza. E quindi questo è un sintomo di inintelligenza. Di inintelligenza. Cioè uno non si può dichiarare ateo perché significa alcune cose. Cioè non ho capito, ma qual è il problema? Cercare di capire ciò che non si sa. Chiaro? Vabbè, arrivederci. Andrea da Venezia, dai Andrea. Andrea? Dimmi. Sì, mi sente? No, non ti sento, ti sento male. Mi sente, sì? No, ti sento male. Vabbè, ciao. Yeah. andato in processione, chiamiamola così, chi è andato a trovare Corona, oltre al sindaco di Lonate Pozzolo e altre persone ancora, ormai ci vorranno i bigliettini, è andato anche il nostro amico chirurgo plastico Giacomo Urtis. Giacomo, buonasera, come stai? Come stai? Bene, bene, bene. Ma che sei andato a fare da Corona, Urtis? Ma salutarlo, non lo vedevo da tanto. Dai, su, ma non ho capito, come l'hai trovato? Ti dico, no, pensavo peggio, invece no, sta bene, mi sembra abbastanza in forma. Ma che gli hai consigliato, scusa, che gli hai consigliato? L'hai visto in faccia? Ha bisogno di qualche ritocchino, ma che ti dice? Beh, no, l'ho trovato, era un po' smonto effettivamente, no, gli ho portato qualche crema, dai. Gli hai portato qualche crema? Che sarà, sì, due creme. Ma io non ho capito, ma tutti possono in carcere di solito, perché quello è come carcere, nessuno può andare a trovare un detenuto, se non negli orari previsti. Là ognuno può fare il cazzo che vuole, cioè entri là, vai a trovare Corona. No. Diciamo che fai un salto, cioè nel senso con appuntamento vai a salutare, capito? Con appuntamento. Ah, con ovvio. Appuntamento, cioè da chi lo prendi l'appuntamento, scusa? C'è tutta un'altra fila, lo fanno le mie assistenti, non so. Ah, come no? Aspetta, metti bene la bocca su sto cazzo di telefono, se no non sento. No, sono in viaggio. Metti bene, se no non sentiamo, dai. E quindi sì, si può andare. Si può andare, devi prenotare, certo. Prenotare da coso. Certo, non so come si fa, però insomma, fatto una volta a trovarlo, ecco, non è che... No, per carità. Faccio le passeggiate. Ma che t'ha detto sto Corona? Che vuole tornare a fare il mestiere di prima? Che vuole fare? Beh, naturalmente no. Adesso è, diciamo che è dedicato là là in comunità, si sta occupando insomma delle mansioni che gli hanno dato. Di cosa si occupa? E di che si occupa, scusa? Ma attento. Dai, però parla bene, scusate. Giacomo, se non si sente, amico mio, dai. Aspetta, scusate. Dai. Gli hanno dato diverse mansioni che non conosco, non saprei, non so dirtelo. Però no, si sta dando da fare, sembra che ha messo la testa a posto. Beh, due anni di galera chiunque. Cioè, secondo te ha messo la testa a posto? Secondo me sì. Due anni di galera, diciamo che l'hanno molto ritemprato. Cioè, lo vedi diverso, non sembra, anche, dalle foto. Lo vedo anche molto attaccato al figlio. Vabbè, quello. Ho visto che lo sente spesso, eccetera, mi ha detto che lo sente spesso e quindi, insomma... Ma è diventato anche un padre modello. Non è che ti ha chiesto di fare qualche ritocchino, no? No, non si può fare. Che ne so, magari gli fai un interventino lì da clinica. E che ne so, gli fai un interventino là da Don Mazzi. Magari, no. Senti, ma tu fai lo sbiancamento anale? Certo, sì. È una diciamo una moda che è arrivata d'oltreoceano. Cioè tu pratichi come tecnica lo sbiancamento anale? Sì, diciamo che è una moda che è arrivata dall'America, dove sì. Appunto le pornostar americane lo eseguono perché sì. Insomma per questioni di copione, di quadratura, sì, giustamente, sì, no? Sì. Perché insomma da dietro. E adesso da te chi lo fa, scusa? Beh, no, ti dirò, le persone normali diciamo, si fanno fare. Anche ti dico perché si scurisce, non solo perché uno fa sesso, ma anche per le cerette, piuttosto che insomma varie infiammazioni, eccetera. Quindi può diventare un po' più scuro. E allora, insomma, anche la casalinga può schiarirselo, ecco, non è niente di che. Ma scusa, ma che serve farselo? Io capisco una pornostar o un pornostar, si fanno fare lo sbiancamento anale, d'accordo, perché per le inquadrature, eccetera, eccetera. Ma le persone normali, che se lo fanno a fare? Cioè le persone normali, cittadini, cioè persone appunto casalinghe, professioniste, eccetera, che non hanno bisogno di far vedere il culo, diciamo, in televisione, no? Cioè perché ti fai lo sbiancamento anale? Per il tuo partner? Per che cosa? Ma sai, innanzitutto uno le cose le deve fare per se stesso. E poi anche. Cioè, tu te lo faresti lo sbiancamento? Te lo faresti o no? Ma ce l'ho chiaro, la verità. Ce l'hai chiaro? Scherzo. No, ce l'hai già chiaro? No, scherzo, ragazzi. È una cosa pazzesca, dai. Diciamo che la chirurgia estetica è un seguire le mode. Ma ad esempio, scusami, professore, quanto costa questo tipo di intervento? Esatto, tu a quanto lo fai pagare? È un trattamento che si fa in studio, costa dalle 300 alle 500 euro. Ma scusami, ma allora te lo posso regalare per il compleanno, Giuseppe? Non ho capito, Giacomo, quanto devi restare? Anche delle gift card. quanto devi restare con le... Sì, fatti lo sbiancamento anale. Quanto devi restare con le... No, si fa una piccola ceretta e poi si mette un prodotto che inibisce gli enzimi che danno il colore alla pelle. Te lo regalo per il compleanno, cruciale, guarda. Poi c'è il mantenimento per casa, che sono delle cremine che faccio, produco io. Ma non ho capito, vabbè, adesso produci tu, ma non è che produrrai solo tu. Io non ho capito una cosa, ma non è invasivo, cioè non c'è il bisturi? Assolutamente no. Si utilizza prima un laser e poi si applica un prodotto che scherza. Ma non resti col culo ferito per qualche giorno, no? No, poi si mette una crema, un recovery mask che serve per... Scusa, ma per curiosità, ma tu fai anche l'allungamento del pene? Sì, diciamo che adesso ce lo stanno richiedendo. Praticamente lo ingrossiamo lo ingrossate. Facciamo un prelievo di grasso e lo ingrossiamo. Cioè fate più l'ingrossamento che l'allungamento, diciamo. Sì, lo ingrossiamo. Sì, ma si può anche allungare, però allungare è già più difficile. Ma quante persone te lo chiedono l'ingrossamento del pene? Scusami, ti dirò, in questo periodo tante. Sì, tante persone. Perché anche quello è come... Parenzo, hai bisogno? Come? Parenzo, hai bisogno dell'ingrossamento? No, io semmai avrei bisogno di una scorciatina, guarda. Vabbè. La corciatina, ma dai, su, ma dai. Vabbè, Giacomo, comunque ci hai illustrato come si fa lo sbiancamento. Ecco. Quanti interventi di sbiancamento anale fai, scusami? Ma quest'anno ne avrò fatto un centinaio. Ma pure Berlusca, secondo te l'ha fatto, no? Tu che sei di casa là, che sei di casa. Quello no, dai. Non l'ha fatto, dici? No, secondo me no, bah. Non ha bisogno. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao, un abbraccio. Ciao. Cruciani, sono felicissimo di avere questa possibilità che mi è stata data, guardi. Io volevo proprio mandarla a fanculo, ma proprio con tutto il cuore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24, la passione si sente.